Italia in controluce. Siamo nel pomeriggio di Radio 24, vi saluta Daniele Biacchesi e Italia in controluce, il programma quotidiano dedicato all'inchiesta, reportage sulla società italiana. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci, che ha realizzato per Italia in controluce un reportage sul rapporto tra scuola e maltempo, visto le condizioni climatiche soprattutto nel centro-sud. Scuola in controluce. È d'accordo sul fatto che Alemanno abbia chiuso le scuole oggi? Il minimo che avreste potuto fare, insomma, almeno i ragazzi siamo tranquilli che non hanno nessun tipo di problematiche, già si sono verificate la scorsa settimana. Ma io condivido, francamente. Meglio chiudere. Preferisco che siano a casa, sì. Sì, per il ghiaccio, perché comunque si spostano, fanno lunghi spostamenti a piedi con i mezzi, per cui se non hanno disagi meglio così. No, io non lo so, avrei aspettato a chiudere oggi le scuole, non lo so, più che altro che stanno perdendo tanti giorni, però insomma sembra che nevica. Poi si crea troppo caos, se nel caso in cui veramente si va, viene la nevicata, è un macello per tutti. Sembrano capire dunque i romani questo nuovo provvedimento di chiusura delle scuole a Roma, anche se siamo a ben 4 giorni di stop delle lezioni. Ma non è solo la capitale a tenere gli alunni a casa, mezza Italia praticamente ha chiuso le scuole in questi giorni. Bologna ha rimandato i ragazzi a casa oggi prima delle 11:30 per evitare il picco del maltempo. Scuole chiuse per ben 9 giorni per il momento in molte province delle Marche. Rimarranno chiuse per quasi 2 settimane nella provincia di Avellino. E poi niente scuola anche nel Cosentino, nelle isole toscane del Giglio e dell'Elba, in molte zone di Abruzzo e Molise. Il ricordo del caos all'uscita delle scuole, delle vittime e delle polemiche il giorno dell'alluvione a Genova ha reso tutti molto prudenti, anche a costo di creare inevitabili disagi alle famiglie che si trovano a dover gestire i figli a casa. Come ci racconta l'assessore alla famiglia, l'educazione ai giovani di Roma Capitale, Gianluigi De Palo. Ce l'avevamo chiesti anche venerdì scorso, tant'è che nell'ordinanza avevamo specificato che le scuole rimanevano aperte, ma che veniva sospesa la didattica, il che ha creato molto scompiglio, ma di fatto era semplicemente dire alle famiglie che i ragazzi erano giustificati, e questo ha prevenuto molto un afflusso nelle scuole che poi si è rivelato importante, appunto, che non ci fosse, proprio perché è caduta molta neve. Questa il senso volta, di però, quella prima ordinanza era: se non sapete dove mettere i figli, portateli pure a scuola, però se li potete tenere a casa è meglio, non ingorgate le strade e tanto la didattica è bloccata. L'idea era quella di giustificare i ragazzi, perché spesso e volentieri, essendo soprattutto nelle scuole superiori ormai l'assenza conteggiata, poteva creare problemi per le famiglie, quindi era un modo per disincentivare mantenendo comunque il servizio. Il bollettino però di ieri è un bollettino peggiore, se vogliamo, rispetto a quello della precedente giornata di venerdì scorso, e quindi la decisione del sindaco ha scelto di fare questa ordinanza. Quindi altri 2 giorni di scuole chiuse, 2 lo erano già state sotto quella forma appunto di cui parlavamo prima, insomma 4 giorni senza scuola, è una decisione importante questa. Mi permetto di dire che se i dirigenti scolastici lunedì scorso, invece di starsene a casa, fossero andati ad aprire le scuole per verificare la situazione, molto probabilmente martedì noi saremmo stati pronti a riaprire le scuole, così cosa che è stata fatta mercoledì con la sola chiusura di 3 edifici per problemi oggettivi derivanti dalla caldaia. Cosa è successo lunedì? Io penso che in un paese normale, no, un preside va a vedere, va a controllare qual è la situazione della propria scuola proprio per creare le premesse per la riapertura di martedì, mentre invece noi, i nostri tecnici, sia per quanto concerne le alberature sia per quanto concerne l'AMA, si sono trovati in molti casi dei cancelli chiusi perché dipende appunto dal MIUR l'apertura dei cancelli di tutte quante le scuole. Avevate chiesto questa disponibilità ai presidi? Questa volta l'abbiamo chiesta con più perentorietà, però sì, l'avevamo chiesta anche all'epoca. Ecco, per il momento mi sembra di capire che su Roma non stia ancora venendo giù il finimondo, diciamo, annunciato, e speriamo che sia così. Roma Nord mi confermano che sta nevicando. Secondo lei potrebbe esserci stato in questo caso un eccesso di zelo? Io credo che non si può fare polemica su una cosa di questo tipo, uno deve fare delle valutazioni che sono il più oggettive possibili in base ai bollettini che ti arrivano, non sono decisioni che vengono prese a sensazioni. Credo che dobbiamo tutti crescere un po', uscire un po' dal da questa emergenza continua e costante, e rendersi conto che anche l'ordinanza della scorsa volta, che comunque lasciava libertà alle famiglie, era un'ordinanza, a mio modo di vedere, che presupponeva una maturità dei cittadini che io riconosco e che credo ci sia, soprattutto da parte delle famiglie. Noi abbiamo comunque tutti quanti l'esempio di ciò che avvenne a Genova, e quindi nessuno adesso, no, viste le critiche, spesso e volentieri veramente i sindaci e comunque le amministrazioni vengono un pochino abbandonate. Amministrazioni che si sentono sole nella gestione dell'emergenza, presidi che non ci stanno a passare per fannulloni. Il dirigente scolastico del liceo Talete di Roma, Antonio Panaccione. Potrebbe essere che i presidi delle scuole mediche dipendono dal comune siano stati così. Noi della provincia siamo stati a lavorare, abbiamo sparato perfino le scale. Quindi se posso dire, quindi la scuola mia era perfettamente funzionante e c'erano tutti a lavorare, il personale, Pirello, tutti quanti. Poi ogni scuola è la parrocchia, chiaro, bisogna vedere pure chi la gestisce e che tipo di ordine ha dato. L'ordine c'era, però insomma non tutti si sono presentati. Vabbè, però il personale che si presenta in genere è il personale ATA, cioè i non docenti, che devono collaborare col preside a aprire la scuola, non si presentano certamente i docenti, perché i docenti, se non ci sono alunni, non sono tenuti per contratto a fare nulla. E i presidi? Noi presidi sì, siamo tenuti a garantire. Io oggi e domani, se nevicherà, devo andare a verificare che non ci siano danni, perché sono stato contattato e ho un modulo che devo verificare, come se fossi responsabile personale di quello che succede durante la neve, capisce? E quindi ci devo andare. Senta, ma per lei era proprio inevitabile questa chiusura delle scuole? Hanno fatto bene? Ma credo che di sì, perché hanno paura che poi succeda. Qua a Roma basta piove un po', farsi due schizzi d'acqua o di neve, si blocca la città, sono tutti pendolari, io li capisco, insomma, i mezzi pubblici non funzionano, non sono mai stati efficienti, figuriamoci durante un periodo così a rischio. Le famiglie si lamentano? No, non si lamentano assolutamente, anzi, l'unica cosa che chiedono a noi è di sapere per tempo quello che facciamo, quindi noi mettiamo tutto sul sito nostro della scuola e quindi rispondiamo alle esigenze dei genitori. Lasciamo Roma per la Calabria, che non viene risparmiata in queste ore dalla neve. Mario Chiuto, sindaco di Cosenza, al microfono di Valeria De Rosa. La situazione è molto sotto controllo, non abbiamo grandi problemi. Abbiamo predisposto un servizio già preventivamente in queste settimane, eravamo in uno stato di allerta, quindi ci sono molti mezzi sulle strade. E stamattina, con un po' di neve in più, abbiamo deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per oggi e domani. Alle 7:30 abbiamo fatto l'ordinanza, abbiamo dato la notizia anche attraverso le TV locali, attraverso i giornali, e abbiamo fatto dei comunicati, dei fax poi nelle scuole, anche perché noi avevamo un bollettino in realtà che non ci dava queste previsioni, anzi ci dava neve sopra i 600-800 metri, e quindi stamattina poi abbiamo deciso di, in ogni caso, per ogni evenienza, di chiudere le scuole. Questa situazione non ha creato disagi, perché abbiamo avvisato in tutti i modi possibili, poi già poiché era in atto questo fenomeno, in realtà vuol dire molti non ci sono recati già naturalmente a scuola. Non abbiamo potuto chiudere ieri perché c'era un bollettino che ci dava la precipitazione delle cose al di sopra dei 600-800 metri. Anche nelle Marche è ricominciato a nevicare, come abbiamo sentito nei GR, dunque anche qui scuole chiuse quasi in tutta la regione. L'assessore ai servizi all'organizzazione scolastica della provincia di Macerata, Leonardo Lippi. A Cinguri sono chiuse già da venerdì, quindi da mercoledì scorso, e sono chiuse fino a domani, a sabato, quindi sono 8 giorni, 6 più 3, 9 giorni chiuse. In Macerata è la stessa cosa, hanno tentato di aprirle ma l'hanno richiusa anche oggi. Quindi 9 giorni di chiusura delle scuole, un evento davvero eccezionale. Sì, eccezionale, è veramente eccezionale, perché ha interessato non una parte di un territorio, ha interessato l'intera provincia, dal mare fino alla montagna. E quindi questa è per la nostra provincia, ma tutta la regione Marche. Non c'era alternativa alla chiusura delle scuole, perché insomma per le famiglie è un bel disagio. L'alternativa, io sono stato sindaco, quindi le dico che l'alternativa si possono tenere aperte, però rischiare di far girare pulmini che possono ribaltarsi e mettere a repentaglio la vita dei ragazzi, ragazzini, no, anche piccoli, scuole materne, nessuno se la sente di prendersi una responsabilità, tantomeno i genitori. Parecchi li lasciano li lasciano a casa, perché anche se sono aperte, perché è un rischio enorme quando c'è ghiaccio, c'è queste condizioni di meteorologiche così drammatiche, un giorno o due non succede niente, 9 giorni sono tanti, ma li recupereremo. Abbiamo la prossima settimana una riunione con l'assessore regionale per determinare l'allungamento dell'anno scolastico. Sì, perché questo dei giorni di scuola persi è un problema davvero molto serio. Le scuole devono infatti assicurare la didattica per almeno 200 giorni. Di solito, facendo il calendario, i presidi mettono in conto una sorta di riserva, tanto per stare tranquilli, di 4 giorni. In questi casi, come abbiamo sentito invece, i 4 giorni sono stati belli che superati. Dunque il Ministero dell'Istruzione, finita l'emergenza neve, farà il punto e potrebbe varare un provvedimento per rendere valido l'anno scolastico anche dove non si sia rispettato il tetto minimo dei 200 giorni, un po' come è successo in Abruzzo dopo il terremoto. Avete ascoltato Italia in Controluce, la seconda edizione. Vi saluta qui Daniele Biacchessi. Vi ricordo la puntata, questa e tutte le altre, in podcast su radio24.it. Avete la possibilità di parlare con noi sui nostri siti Facebook, la pagina del gruppo Twitter, il blog sul sito della radio, anche la pagina Facebook su Radio 24, tramite mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì con la prima edizione alle 6:30 dedicata ai 20 anni di Mani Pulite.